Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Disintermediazione è la parola d'ordine di molti business di successo dell'era internet. Colossi come Airbnb o come Uber che hanno fatto la loro fortuna risolvendo ognuno nel proprio campo, dopo tutto, la stessa equazione: mettere in contatto chi aveva una risorsa a disposizione, una camera da affittare, la propria automobile, non importa, con chi poteva averne bisogno. La startup di cui parleremo questa sera cerca di fare qualcosa di simile con qualcosa di cui in genere invece ci si vuole liberare, con dei rifiuti. Si chiama Borsino Rifiuti, è una startup innovativa nata nel 2015. In linea con noi per parlarcene c'è l'amministratore delegato e cofondatore Gianluca Vorraro. Buonasera Vorraro. Buonasera a tutti voi. Allora Vorraro, voi sostanzialmente state cercando di creare, diciamo così, un mercato dei rifiuti aperto. Come funziona? Sì, abbiamo realizzato questa piattaforma online dove chi ha un rifiuto può trovare una giusta collocazione, eventualmente anche guadagnarci da questa collocazione. Cioè io ho un rifiuto, vengo sulla vostra piattaforma e sostanzialmente, diciamo così, lo metto all'asta. Succede una cosa del genere? Sì, gli interlocutori possono essere sia privati che consegnano ai nostri Borsino Point i loro sottoprodotti, quindi un prodotto e non un rifiuto. Quindi avete una decina di questi centri sparpagliati soprattutto nel sud Italia, dove anche il privato cittadino può conferire dei rifiuti, non so, ha tagliato l'erba piuttosto che anche tanta carta da buttare. Con i sottoprodotti e non rifiuti dentro i nostri point, quindi che vanno, sono dei prodotti che vanno direttamente in aziende, sì, che possono poi trasformare questi prodotti direttamente in nuovi beni di consumo. Esempio? Esempio, i tappi di plastica, mi va a creare un altro tappo di plastica. D'accordo. Ok. Oppure la carta che va in cartiere mi va a creare un altro foglio di carta. Ecco, chi conferisce, il privato cittadino che conferisce ai vostri centri, diciamo così, di raccolta questi materiali, invece di aspettare che passi a ritirarla, insomma, l'azienda che gestisce i rifiuti, ottiene un vantaggio. Sì, dei vantaggi economici. Stiamo parlando del 30% del valore di mercato dei sottoprodotti che consegna e poi altri vantaggi, diciamo, più di marketing. Questo per quanto riguarda la famiglia, diciamo, ma il vostro principale, diciamo così, interlocutore in realtà sono le imprese, anche perché sono quelle che producono rifiuti in quantità più significative. Sì, sono le aziende, appunto, le aziende che possono utilizzare la piattaforma in due modi. Uno, quando un'azienda ha pochi rifiuti da smaltire e quindi viene fatto tramite la nostra intermediazione la raccolta, la micro raccolta su tutto il territorio nazionale. E anche in questo servizio chi offre dei materiali riciclabili alla fine dell'anno percepisce il 30% del valore medio di mercato del rifiuto consegnato. Poi c'è un altro aspetto, invece chi produce, l'azienda che produce grandi quantità di rifiuto, allora può indire delle aste. Quest'alta partecipano sia aziende che gestori ambientali che possono valorizzare il rifiuto inserito. Comunque complessivamente diciamo che il vostro meccanismo, che cerca appunto di mettere in contatto, chiamiamolo così, domanda e offerta di rifiuti, con due obiettivi direi. Uno, quello di abbattere i costi di smaltimento andando a trovare qualcuno che smaltisce in modo efficiente il proprio rifiuto. Alternativa preferibile invece trovare qualcuno che sa cosa farsene di quel rifiuto, e a quel punto addirittura ci si può guadagnare anche qualcosa, se ho ben capito. Questo è un po' il tema. Sì, infatti ci sono dei gestori ambientali che possono valorizzare inserendo nel riciclo questo rifiuto, oppure anche aziende che possono prendere, non in questo caso il rifiuto, ma un sottoprodotto, perché al loro interno, nel loro ciclo industriale, possono utilizzare direttamente quel prodotto per creare un nuovo bene. Quali sono le tipologie di rifiuti che state trattando più spesso? Allora, stiamo trattando più spesso oli vegetali, prodotti da cartiera, quindi carta, cartone, metalli, molti metalli e plastiche. Questi qua sono i rifiuti, diciamo, a riciclo che vanno per la maggiore. Anche insomma, i classici in fondo che si riciclano dopo tutto, sì, no? Vanno direttamente nell'industria del riciclo e vengono lavorati per poi produrre delle scaglie per produrre appunto nuovi prodotti, quindi diventano materie prime e seconde. Dunque c'è un'iniziativa che è in corso in questo momento, un'iniziativa di equity crowdfunding da parte vostra, fino credo al 20, è possibile 23 di maggio, ancora c'è quasi tutto maggio, no? Per entro fine maggio viene chiusa la campagna di crowdfunding sulla piattaforma crowdfundingme.it. Sì. Scopo della raccolta? Scopo della raccolta è implementare quelli che sono i servizi della piattaforma e essere più radicati poi sul territorio. Per esempio aumentare il numero di questi centri di raccolta? Assolutamente sì, vogliamo proprio inserirli non solamente nel sud Italia ma anche nel nord Italia e nel centro. Va bene, grazie Gianluca Vorraro. Grazie a tutti voi e a risentirci, a presto.